Ecco, stasera di cosa ci parli, don Andrea? Allora, guarda, stasera pensavo di parlare, di continuare il mio percorso sui Vangeli e di parlare delle ultime ore di Gesù e del buon ladrone. Molto, molto bene, molto bene. Ecco, inizia pure. Bene, allora, ecco, questo tema nel mio libro Più gioia in cielo fa parte di quel capitolo in cui cerco di riflettere a partire dal Vangelo sul fatto che Gesù prende il nostro peccato e i peccati di tutti su di sé. E allora a me sembra che, non sembra solo a me, evidentemente è il punto centrale, che ritornare anche, può servire anche noi che siamo adesso in pieno tempo pasquale, su quei momenti, sulle ultime ore di Gesù sulla terra, e che si intersecano, secondo San Luca, con le ultime ore, che sono ore di conversione del buon ladrone. Nel mio libro io lo chiamo Dema, come una certa tradizione lo chiama, Dema o Desma, gli hanno dato un nome a questo buon ladrone, e per facilità anche di racconto. Bene, allora, noi, tenendo presente che questo personaggio insieme con l'altro malfattore nelle carceri quando Gesù viene catturato, ecco, affrontiamo il primo quadro di queste ultime ore, è senz'altro il Getsemani. E Gesù dice ai suoi discepoli: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. E noi conosciamo bene quell'episodio, è il primo mistero doloroso del Santo Rosario, e sappiamo bene che i discepoli, quei tre che erano i predletti, quelli che erano stati sul Tabor, però non ce la fanno a seguirlo, a stare vicino a Gesù, a pregare con lui, e si addormentano addirittura. Ecco, Gesù quindi veramente rimane solo con il suo dolore, un dolore che è proprio, forse ancor più nel Getsemani si vede chiaramente, che il dolore del peso di tutti i nostri peccati che lui prende su di sé come se fossero commessi da lui, come se, ecco, sì, naturalmente nessuno come il Signore Gesù, nessuno come Dio ha la possibilità di capire veramente la gravità del peccato, per cui Gesù soffre terribilmente, infatti proprio San Luca... Ecco, avvicina leggermente l'apparecchio. Sì, ecco, così va bene, si sente meglio. Sì, sì. E proprio San Luca dice che le gocce del suo sangue bagnavano la terra. Ecco, io penso che se noi riflettiamo sul fatto che in quelle ultime ore Gesù soffre così tanto per i nostri peccati, e pensando al momento della nostra confessione, il momento in cui chiediamo perdono a Gesù del nostro peccato, riconoscendolo ed esplicitandolo davanti al sacerdote, e possiamo pensare che in quel momento noi alleviamo il dolore di Gesù nel Getsemani. Io così, riflettendo su quella scena, nel mio libro pensavo di immaginare i sentimenti di Gesù proprio in questo senso. È come se Gesù pensasse che i suoi discepoli non lo capiscono. Statemi vicino per non tradirmi anche voi, non aumentate il mio dolore. Se mi abbandonate potrei morire qui al Golgota, non arriverò. Oltre ai capillari della fronte si spaccherà anche il cuore. Se invece tornate, se state con me, se Giuda arrivando mi chiedesse perdono, allora passerebbe gran parte dell'angoscia e della paura. Ecco, forse questa riflessione sui sentimenti di Gesù ci può aiutare nel momento in cui ci avviciniamo alla confessione, pensando che chiedere perdono veramente cambia tutto nel cuore del Signore. E la seconda scena che noto, il secondo versetto del Vangelo che mette in evidenza, pensando alle ultime ore di Gesù, è Gesù crocifisso, ecco, secondo San Luca, sul Calvario, luogo detto Cranio, e i due malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Ecco, io penso che queste parole di Gesù, se noi cerchiamo appunto di approfondire il significato e di capire sempre meglio, secondo il Vangelo, il sacramento della misericordia del Signore, il momento la sua grande misericordia, l'abisso del nostro peccato e l'immensità di questo perdono. Ecco, quella parola che Gesù dice la croce, perdonali Padre perché non sanno quello che fanno, ci deve veramente aiutare a vivere la richiesta di perdono e il ricevere la soluzione dei nostri peccati in un modo molto più consapevole. E Gesù sta chiedendo perdono al Padre di un peccato che lo mette sulla croce, e di fatto noi sappiamo, e lo sappiamo proprio per la rivelazione divina, che è il nostro peccato che crocifigge ancora una volta il Signore. Ecco, Lui che capisce la gravità del nostro peccato più di tutti, e lo vede in tutta la sua chiarezza, perché noi a volte lo intravediamo, non è così chiara la nostra coscienza, ecco, Lui che lo vede in tutta la sua crudezza, in tutta la sua gravità, chiede perdono al Padre per quel peccato lì che lo mette sulla croce. Proprio il nostro peccato, quello di cui desideriamo chiedere perdono al Signore, e gli chiediamo perdono in questo stesso momento, e lo chiederemo nella prossima occasione che abbiamo di avvicinarci al sacramento della penitenza. Quel peccato che Lui vede benissimo, che lo mette sulla croce, ecco, di quello Lui ci vuole perdonare. E commuove veramente Gesù quando perdona, e commuove soprattutto quando perdona e chiede perdono per il peccato che causa il suo dolore e la sua morte. E in quel momento, ecco, io penso che anche quando Lui dice perdonali perché non sanno quello che fanno, quindi anche questa grandezza di cuore, questa magnanimità del Signore ci conforta e ci aiuta, perché Lui sa trovare una scusante, sa trovare una giustificazione, in qualche modo potremmo dire. Noi nella confessione dobbiamo arrivare anche a chiedere perdono al Signore di quei peccati che non vediamo, qualche volta anche nella liturgia ci sono delle preghiere bellissime che ci portano a chiedere scusa anche delle colpe che non conosciamo e che il Signore conosce. Forse anche questo ci aiuta nei rapporti interpersonali, nella vita familiare, nella vita sociale, nei rapporti con i colleghi di lavoro, perché lì sappiamo bene che avvengono tante piccole o grandi mancanze, anche reciproche, di carità, di attenzione. Pensiamo che forse gran parte di queste mancanze che ci fanno soffrire non sono consapevoli. Se Gesù le vede, e probabilmente chiede al Padre perdono, perdonali, perché non sanno quello che fanno, quello che stanno facendo, non si rendono conto che stanno facendo un grande male, un grande danno, che stanno facendo soffrire quella persona. Allora, se noi pensiamo questo, ci uniamo a questa preghiera di Gesù, e anche noi diciamo, anche se ne siamo in qualche modo, possiamo esserne vittima, perdonali Padre perché non sanno quello che fanno. E come diverso l'atteggiamento di Gesù, l'atteggiamento di Dio di fronte al peccato rispetto al nostro, noi tenderemmo alla vendetta, alla ripicca, alla rivalsa, e invece Lui subito pensa al perdono. In questo momento sublime della nostra salvezza, che è la crocifissione del Signore, ecco, uno dei malfattori lo insultava. E rileggendo questo brano di San Luca, ecco, mi colpiva il fatto di vedere che proprio tutti se la pigliano con il Signore, e il popolo che sta a vedere è un po' distante, un po' forse indifferente, un po' curioso, i capi che lo scherniscono dicendo ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei il Cristo di Dio e il suo eletto. E lì ci sono in questa scena i giudei, i quali considerano la croce uno scandalo, per loro colui che pendeva dal legno era maledetto da Dio, quella era per loro la prova definitiva che aveva bestemmiato. E allo stesso tempo ci sono poi i romani, cioè i gentili, quelli che non, ecco, che non avevano la fede in Dio, e lo schernivano pure, ecco, e si accostavano per porgergli dell'aceto, dicevano se tu sei il re dei giudei salva te stesso. E questi sono proprio quei gentili di cui parla San Paolo, i quali vedono la croce come una stoltezza, e probabilmente pensano questo è un po' pazzo, dice che è il re dei giudei. C'era anche una scritta sul suo capo, questo è re dei giudei, e uno dei malfattori appese alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. Ecco, questo si capisce che questo malfattore, come chiamato da Luca, sa chi è il Messia o il Messia che doveva venire, sa che porta una salvezza, però pensa che questa salvezza debba essere solo la salvezza dal supplizio che sta soffrendo. E quindi, paradossalmente, in questo momento i potenti e gli umili, i capi e addirittura i giudici e i condannati, ecco, tutti quanti, il potere religioso e quello politico-militare, tutti sono contro Gesù e tutti fanno a gara a non capire lo scandalo e la stoltezza della croce, e vorrebbero da Gesù un gesto miracoloso, plateale, ma e questo, dobbiamo pensare che questo succede spesso anche noi, fino a che vorremmo, ci lamentiamo del silenzio di Dio, vorremmo un suo intervento plateale che risolve i problemi, e non comprendiamo il suo agire, il suo non intervenire, il suo permettere anche cose che ci fanno soffrire, cose brutte, cose, il peccato di l'uomo. È fedele Dio alla libertà che ci ha lasciato, il suo lasciare fare, e possiamo arrivare addirittura a giudicare Dio, a non comprendere perché ha creato un mondo che non è perfetto, dove è possibile peccare, e forse non vinciamo ancora la nostalgia del paradiso terrestre o il desiderio di aver già qui subito per noi quei cieli nuovi e la terra nuova che invece sono destinati nel futuro. E invece Dio fa le cose bene, Dio sa molto più di noi e trae un bene immenso dai mali del mondo, come dalla croce di Gesù. Noi abbiamo il compito, come popolo sacerdotale, di offrire tutti i mali della terra, di metterli insieme nella messa alla croce del Signore perché possano essere efficaci per la redenzione di tutti. Ecco, Gesù tace e prende su di sé anche il peccato di tutti quelli che lo insultano e che non lo comprendono. E dobbiamo pensare che quando andiamo a confessarci, quando andiamo a portare il nostro peccato nelle mani del Signore, quando ci mettiamo sotto la croce perché il suo sangue ci purifichi, ecco, lì forse tante volte ci può essere successo e ci succederà ancora, che comprendiamo, ecco, quel disegno divino, il Signore ci spiega la parabola di quella croce che forse ha messo sulle nostre spalle, e che in quell'istante comprendiamo che ci sta aiutando nella nostra santificazione. Ma l'altro, il Bolladone Dema, lo rimproverava, e rimprovera il suo collega, di condanna: neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. Ecco, in questo quadro di totale incomprensione, invece questo che tutti insomma chiamiamo buon ladrone ha compreso chi è Gesù, e forse da quando gli è stato messo accanto non lo ha perso di vista, ha capito il suo silenzio e il suo sguardo, e ha capito il pianto che per lui hanno versato le donne di Gerusalemme, e ha colto nello sguardo dei suoi discepoli qualcosa del suo mistero. E come Pilato, ma in modo diverso, che lo porta alla conversione, capisce che in lui non c'è nessuna colpa, e lo Spirito Santo lo aiuta a capire che Gesù è il figlio di Dio condannato alla stessa pena. E così Dema diventa il primo salvato dalla croce, il primo che, guardando Gesù sulla croce, comprende il proprio peccato, se ne pente e chiede perdono. E pensate, in più accetta totalmente, è per una grazia immensa di Dio, il disegno di Dio sul dolore. Non lo scandalizza che Gesù innocente stia sulla croce a soffrire con lui, e riconosce il proprio peccato e accetta che questo peccato meriti la condanna e la pena. Capisce che Gesù è sulla croce per il suo peccato e non accusa Dio del male che sta lui soffrendo, non è colpa di Dio il male che soffriamo. Conosce invece, con un dono ineffabile di fede, che quella croce di Cristo è porta attraverso la quale Gesù entrerà nel regno di Dio. Non è una sconfitta ma una vittoria, è la conquista del regno. Per cui arriva quella stupenda frase: è l'unico momento in cui nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, una persona si rivolge a Gesù proprio chiamandolo così, e con il suo nome: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Ecco, a me piace vedere, insomma, in questo dialogo così stringato, anche perché i Vangeli sono sempre così, e probabilmente anche i condannati a morte sulla croce non avevano capacità e forza per fare lunghi discorsi. Ecco, Dema cerca, il buon ladrone cerca attraverso la croce di Gesù la salvezza vera, quella definitiva, non la salvezza di scendere dalla croce, quella eterna. E in quella sola frase lui manifesta tutta la sua fede, tutta la sua speranza soprannaturale, il cielo, e tutto il suo amore. Si può dire che ha riconosciuto il proprio peccato e ne ha accettato la penitenza, e trasforma in penitenza la sua condanna, e lo dice con parole chiare. E ecco, io faccio un parallelismo, evidentemente può sembrare un po' forzato, ma mi sembra che sia molto bello. E conclude questa sua singolare e unica confessione, perché nessun altro può avere una confessione come questa, con l'atto di dolore e di speranza più bello del Vangelo: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù riconosce questo processo spirituale che è avvenuto dentro di lui, l'autenticità della sua conversione, il suo sincero desiderio di salvezza, e gli risponde con le parole forse più consolanti uscite dalla sua bocca, unica e irripetibile, eccelsa formula di assoluzione: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. E noi ci immaginiamo che questo nostro primo fratello è il primo che ha varcato la soglia della speranza. Ma è molto sereno, pur essendo in mezzo ad atroci sofferenze, e è il primo di tanti. I sacerdoti che hanno esperienza, quanti malati e moribondi hanno visto consolati dalla grazia di Dio e morire in pace con lui, e questa è veramente una morte, paradossalmente noi nella fede possiamo considerarla una morte stupenda, anche se umanamente può sembrare terribile. Magari la nostra morte fosse così invasa dalla sicurezza, così unita alla morte di Cristo, e nonostante le pene che la potranno accompagnare e che noi dobbiamo lungo la vita accettare e offrire al Signore, con la sua grazia, naturalmente con l'aiuto di Maria e di Giuseppe. Se lungo la vita imitiamo il buon ladrone nella fede, nel riconoscere il nostro peccato, nel chiedere perdono, allora frequentemente, dicendo spesso appunto con altre parole, facendo nostre le parole del buon ladrone davanti al crocifisso: Gesù, ricordati di me adesso che sei nel tuo regno. Allora penso che appunto il Signore ci darà la grazia, quando arriverà il momento della morte, di far sì che sia così, ecco, molto vicino a lui, una morte santa come quella del buon ladrone, che nonostante i suoi peccati, ecco, viene accolto dalla grazia di Dio, dall'abbraccio di Gesù, e nel suo regno. Ecco, era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. E forse a questo punto verrebbe appunto da soffermarsi in silenzio di preghiera, come, ecco, siamo abituati a fare quando nella liturgia si legge la passione del Signore. E ecco, quando noi andiamo a chiedere perdono del nostro peccato dal Padre del Cielo e attraverso Gesù Cristo, nostro Signore, vogliamo, ecco, morire al peccato, fare morire, annegare quella vita negativa del peccato nell'oceano del bene e dell'amore. Quindi in qualche modo consegniamo il nostro spirito, ecco, nelle mani di Dio, perché lo purifichi e lo modelli secondo il modello di Cristo suo Figlio. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E in un certo modo aprire il cuore nella confessione, denudare l'anima, affidare lo spirito e confidarlo, ecco, è un tutt'uno. Questo affidamento spirituale implica anche lasciarci curare, purificare, anche plasmare dalla grazia di Dio, e anche essere docili ai suggerimenti che riceviamo. E confidiamo appunto che in questo modo la nostra vita si modelli secondo il modello di Cristo. Questo è il desiderio del Padre del Cielo. Chiediamo l'aiuto della Madonna in questo mese di maggio, e è il suo grande desiderio, no? Che tutti i suoi figli in fondo, ecco, si assomiglino secondo il modello del primogenito. E quindi chiediamo alla Madonna che sta sotto la croce, Stabat Mater, ce l'ha ricordato il Papa anche nell'enciclica sull'Eucaristia, ci ha ricordato anche che noi in fondo la Madonna la riceviamo dal Signore, ecco, tutte le volte che partecipiamo alla Messa, e noi cerchiamo di ricordarla, ecco, la Madonna ci aiuti, come ha aiutato Giovanni, a stare sotto la croce e a identificarci con Cristo nostro Signore. Grazie, ecco. Grazie infinite Don Andrea, è stato bellissimo, e anche un, diciamo, a sfondo mariano. Ecco, adesso noi ci risentiamo il 19 giugno, che sarà proprio il giorno del Corpus Domini, il giorno giusto, Ah, che bello! Perché è giovedì, giovedì 19 giugno, il giorno del Corpus Domini. Quindi il nostro appuntamento è senz'altro fissato per quel giorno. E adesso attendiamo la tua benedizione per vivere bene il mese di maggio, e poi per vivere soprattutto questa enciclica sull'Eucaristia, che è un altro grande dono del Santo Padre in questo anno 2003. Sì, allora... Guarda, ecco, la benedizione di Dio Onnipotente per intercessione di Santa Maria, ecco, discenda su di noi tutti e rimanga sempre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.